24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. L'inconveniente col proiettore, ma dico, stiamoci attenti a certe cose, no? Pietro, qua la situazione è drammatica, perché il calo di tensione mi ha incasinato tutto. Con tutto il rispetto, professore, però qui stiamo parlando della mia carriera. Se non mi rifinanziano la ricerca, io sto in mezzo ad una strada. Ma che dici, ce ne stiamo andando benissimo. Adesso bisogna trovare una bella cornice politica, a cui ho già pensato. Io questa cosa della politica non ho capito proprio. C11, H15, NO2. Che ti devo dire? Vabbè, è una sostanza psicotropa ad azione agonista sul sistema serotoninergico, no? E poi? E poi che? Poi che? E poi è legale. E se io te la faccio diventare legale? Alberto, no, no, Alberto, no. Alberto, noi due siamo più intelligenti degli altri. Se ci mettiamo insieme io e te facciamo un sacco di soldi. Pietro, guarda che io qui fra massimo 6 mesi vado a servire i tavoli, divento cameriere. Mangio un giorno libero a settimana e 700 euro al mese. Non so se mi spiego. Io che ti faccio guadagnare in mezz'ora 700 euro. Sentimi, mettiamo su una banda. Gli spacciatori? Tu sei laureato? Sono laureato io. Io sono stato chiaro, non assumo laureati. Ma non sono laureato, ma mano che c'ho da scuola in terza media che spingevo il fumo. Non siete affidabili. Ma che stavo qua se ero laureato? Abbiamo pazienza, no? Sei il terzo sta settimana. Sono laureato. Vabbè, sono laureato, sì. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Io, guardi, ho inoltrato una richiesta per rinunciare al mio titolo accademico. Significa che tempo 2 settimane io sono praticamente alla quinta elementare. Senti, rega, qui c'è da sporcarsi le mani. Sono qui apposta. A me non mi serve la gente che sta tutta la vita sui libri. Sono d'accordo. È chiaro? Sì. Io lo so dove vuoi andare a parare, però Pietro, veramente, l'ennesima manifestazione dei ricercatori precari davanti a Montecitorio, dopo la manganellata dell'ultima volta. No, Arturo, io non vi ho chiesto di venire qui per l'ennesima manifestazione su Italia alla ricerca. Anzi, io vi ho chiesto di venire qui proprio perché non ne voglio fare mai più. Voi siete le migliori menti in circolazione e vivete ai margini della società. Dai, su, guardiamoci in faccia. Noi sappiamo solamente studiare. Non ce lo fanno fare? E allora io ho studiato un modo per riprenderci quello che ci meritiamo. Però allora lo vedi che mi ritorni sempre sulla manifestazione? No, Arturo, mettiamo su una banda. E la banda al Gemelli di Roma l'hanno fatta. Una banda di trentenni ha organizzato la tempesta dei cervelli. Al Gemelli, appunto, si sono riuniti 60 giovani ricercatori dei 6 paesi del mondo e 5 scienziati di fama internazionale per mettere a fuoco i punti da cui ripartire per dare ossigeno al sistema della ricerca in Italia. Però partiamo dai numeri. I numeri sono impressionanti. Quanto costa all'Italia la fuga dei cervelli? Samantha Mariani e Luca Cascetta, 2 ricercatori che insieme alla pediatra Chiara Bertolaso hanno organizzato la tempesta dei cervelli, per noi hanno fatto un fact-checking. In Italia i ricercatori sono 70.000, in Germania e in Francia sono il doppio. All'estero si stima che ci siano 50.000 ricercatori italiani e altri che non sono censiti, che non sappiamo in realtà dove lavorano. Ma partiamo da questo dato, cioè dal fatto che abbiamo 50.000 ricercatori italiani che lavorano all'estero. Il costo della formazione per lo Stato italiano di un ricercatore dalla scuola primaria fino al PhD, che sarebbe un dottorato, è di 300.000 euro circa. Quindi l'Italia ha speso 15 miliardi di euro per formare i 50.000 ricercatori italiani che sono attualmente residenti fuori dal paese. E questo è solo il costo della formazione, 15 miliardi di euro. Ma con la ricerca che cosa si fa? Si fanno scoperte e quindi si fanno dei brevetti che hanno un grandissimo valore industriale e commerciale. Sapete approssimativamente quanto valore possono produrre i nostri ricercatori che sono costati 15 miliardi di formazione e vivono all'estero? Per avere un parametro, oggi il valore dell'attività nella produzione di brevetti dei 20 scienziati italiani più produttivi è circa di 780 milioni di euro l'anno. Quindi se un singolo scienziato producesse anche solo un decimo di quello che fanno i 20 migliori ricercatori, produrrebbe 3 milioni e 900 mila euro l'anno. Quindi i 50.000 scienziati italiani che stanno all'estero potrebbero portare alla nostra economia 195 miliardi di euro l'anno con la produzione di brevetti. Proprio per questo Chiara Bertolaso, Luca Cassetta e Samantha Mariani hanno pensato e realizzato La tempesta dei cervelli al Gemelli di Roma. Sara Tardelli per noi ha guidato questo incontro intergenerazionale molto interessante, di cui oggi Repubblica parla anche in prima pagina con un pezzo della senatrice Cattaneo, protagonista dell'incontro. Elena Cattaneo è la senatrice a vita più giovane della Repubblica e uno dei massimi esperti al mondo di staminali. Senatrice Cattaneo, ricerca e politica, una speranza o una delusione? C'è una profonda disarmonia e una profonda diffidenza, e che questa è reciproca, ma insomma bisogna trovare il modo per voltar pagina. Cioè, non credo che una società possa sopravvivere a lungo senza trovare il modo di costruire un'alleanza tra scienza e politica. Ma secondo lei è un problema di competenze nel mondo della politica? Io credo che insomma il primo problema non è che le competenze in questo ambito lì dentro non ci sono, perché questo è inequivocabile, è un fatto che non ci sono. Ci sono altre competenze, guardate, non pensate che... Sono scientifiche, stavamo dicendo, quelle hanno capaci... altre competenze. No, l'argomento legato a ricerca non c'è. L'ossessione è proprio, insomma, come fai a far sì che perlomeno si accenda un faro, ecco, perché al momento è buio. Cioè, al momento c'è quello che si perde ignorando questo ambito, insomma, non è percepito perché non c'è nessun faro acceso. E quindi che cosa si può fare? Io credo davvero che chiedere finanziamenti oggi è praticamente impossibile, ma anche perché il paese ha tante di quelle emergenze e non è un paese che riesce a capire che le emergenze si affrontano e si superano proprio investendo in questi ambiti, certo, no, del... che ti costruiscono il domani, quindi non è un paese così. Però io vorrei, ecco, quello che vorrei fare, far capire questo paradosso cronico che il paese vive, perché veramente mi fa anche rabbia. Il paradosso sta nel fatto che queste competenze ci sono in Italia, in tutte le discipline. Tu valichi le Alpi e di là c'è sempre qualcuno pronto ad attrarti, e qui sei perfettamente ignorato. Troppe volte in questo paese, qui la mia rabbia, vince la finzione. Il motivo per cui ci siamo scagliati così fortemente verso Stamina era che se tu studi in un ambito, se tu sviluppi un metodo per accertare i fatti al meglio della nostra conoscenza oggi, non puoi permettere a nessuno, né a un primo ministro, né a un ministro, né a 25 milioni di persone, se quei fatti che tu hai in mano sono quelli più veri oggi, di portarteli via. Quando arrivi in Senato, ma penso sia lo stesso alla Camera, ti rendi conto che la situazione è complessissima e che forse ad essere complesso non è solo il Senato o la Camera o nemmeno il Parlamento italiano, ma sono le società democratiche, che paradossalmente sono, forse, molto più complesse di quelle totalitarie dove c'è uno che decide, c'ha ragione lui e tutti gli altri eseguono. Quindi la difficoltà, che è chiaro che nessuno vuole una società di quel tipo, ma la difficoltà è come concilia appunto la visione democratica di una società con tante tensioni eccetera, con anche insomma un modo di far politica e un Parlamento, quello italiano, che insomma non è che ha fatto grande scuola ultimamente, no? Cioè, sono 20 anni o 30 anni che quei parlamenti mirano a cancellare la realtà. Troppe volte noi scienziati, parlo anche di me, ti accontenti di avere lo splendido risultato, che è bellissimo, no? Studi una malattia, raggiungi quell'obiettivo, cioè, chi non si innamora di queste? Poi però la mia percezione è che noi non riusciamo, cioè questi risultati è come se non entrassero nelle maglie legislative, no? Quindi c'è il ritorno per te, c'è il ritorno per il tuo gruppo, per il tuo ente di ricerca, ma non per il sistema, ma non per la società, quindi i cittadini, anche noi, li lasciamo troppo fuori. Professor Gennaro Melino si divide tra Tor Vergata e il Medical Research Council di Leicester, guidando due gruppi di ricerca sull'apoptosi cellulare, e ha fondato un giornale scientifico tra i più rilevanti nel panorama italiano. Professor Melino, raccontare la scienza e le sue scoperte fuori dal circuito scientifico può aiutare ad orientare anche le decisioni della politica? Deve aiutare, cioè il problema importante è quello della comunicazione scientifica, e il caso di Stamina che citava la senatrice è proprio anche un esempio. Anche dei vaccini di questi giorni. Anche dei vaccini di questi giorni, di Ebola, cioè l'importante è dare una informazione corretta. Spesso la stampa, tutta la stampa o perlomeno una parte della stampa, taglia troppo troppo i corner, degli angoli, quindi cerca di andare troppo rapidamente a una immagine sensazionale senza verificare le fonti. Però invece un'autocritica, c'è stata un po' una forma di snobberia nel mondo della ricerca? A volte c'è snobberia, a volte c'è incapacità di poter, di saper comunicare in un certo modo, in una certa maniera, di saper presentare, digerire le informazioni scientifiche al pubblico. E devo dire che ho incontrato all'estero spesso delle persone che hanno una scuola, degli insegnamenti, delle guide su come avviene questa comunicazione. Esiste anche la formazione di giornalismo scientifico. Certo. Lei vive appunto diviso tra l'Italia e l'Inghilterra. Il servizio pubblico, cioè la RAI, oggi svolge la sua parte nel sostegno alla divulgazione della scienza e della ricerca? La RAI? La RAI? Pochino. L'informazione, la gestione dell'informazione è una cosa fondamentale, appunto. Io ho visto dei programmi nella BBC che effettivamente sono fatti in una maniera magistrale, con ricercatori, con informazioni corrette. Ho visto dei programmi su ricercatori in Canada, della televisione nazionale canadese, dedicata alle donne nella scienza, ma fatti estremamente bene. Diciamo, le ricercatrici e i ricercatori sono appunto una specie di specie sconosciuta. Lei, senatrice Cattaneo, che cosa dice sulla comunicazione pubblica? La cinghia di trasmissione della comunicazione è rotta, è interrotta. Ma forse dobbiamo anche sviluppare un po' più di senso comune, cioè che di là, insomma, c'è qualcuno che non è così pronto a rinnegare le sue di verità. Dottore Enrico Luglio, un enfant prodige della scienza, dopo un'esperienza all'Istituto Nazionale di Sanità americano, torna in Italia e a 32 anni è junior investigator all'Humanitas, di un'unità di ricerca sui meccanismi di ricostituzione del sistema immunitario nei pazienti che hanno subito un trapianto di midollo osseo. Dottor Lugli, che cosa le ha dato l'America in più per la sua formazione? Beh, l'America mi ha dato moltissimo. Prima di tutto, io stavo in un istituto veramente ricco, questo lo posso dire, perché tutti lo invidiano, anche i ricercatori americani. L'NIH è un posto dove gli scienziati non hanno necessità di scrivere richieste di finanziamento, quindi i finanziamenti arrivano direttamente alla Casa Bianca. Quindi, insomma, questo sicuramente per i ricercatori aiuta moltissimo. La cosa, secondo me, più bella, più interessante è stato l'ambiente culturale. Un ambiente culturale eccezionale, migliaia di persone che lavorano su qualsiasi aspetto della salute in un unico centro. Ho avuto la possibilità di lavorare con persone che avevano scritto i libri di testo che io avevo utilizzato per studiare all'università e fare gli esami di immunologia. Cioè, per me è stata una cosa veramente incredibile. Insomma, credo che tutti saremmo impressionati da questa cosa, persone che avevo sentito solamente nominare, di cui non avevo mai visto la faccia, e quando poi magari mi si veniva, arrivavano davanti, ah, sei tu. Dottor Lugli, ma se non fosse stato all'NIH, pensa che sarebbe riuscito lo stesso a diventare junior investigator a 32 anni? No, credo di no, credo che io abbia avuto la possibilità di essere molto produttivo in un tempo relativamente limitato. Un problema oltre a quello dei fondi è la lentezza con cui vengono effettivamente assegnati i finanziamenti. Dottor Lugli, molti ricercatori, ho letto, che ottengono dei grant, che passa troppo tempo da quando poi ricevono veramente questi soldi e quindi mollano i progetti perché non avrebbero di che mantenersi. È un problema questo? Beh, questo è un problema, però qua c'è da fare una precisazione, insomma, parlo della mia esperienza personale. Certo. Ho vinto il progetto della ricerca finalizzata a gennaio di quest'anno, che tra l'altro era la call del 2011-2012. I soldi sono arrivati la settimana scorsa, questo per darvi un'idea dei tempi, quindi insomma il ministero è un po' lento da questo punto di vista. Quello che mi hanno insegnato negli Stati Uniti è che non bisogna affrontare il problema diretto e non cercare di andare a destra, a sinistra, la strada più corta è quella che unisce due punti. Professor Guido Poli inizia la sua ricerca sul virus dell'HIV all'Istituto Mario Negri di Milano. Dopo 7 anni a Stelle e Strisce torna in Italia ed è a capo dell'unità di immunopatogenesi dell'AIDS all'Istituto di Ricerca San Raffaele di Milano. Professor Poli, qual è il problema numero uno dei finanziamenti per le vostre ricerche? Un problema strutturale che abbiamo a livello europeo, cioè il problema della continuità. Questo è un qualcosa che non viene capito a Bruxelles e che credo che noi dovremmo direttamente e indirettamente attraverso i nostri rappresentanti cercare di far passare. poi questo si lega direttamente anche alle carriere dei giovani ricercatori. Come si fa, ad esempio, per la sua esperienza a trasmettere l'importanza di una ricerca mirata come quella dell'HIV? La bellezza anche della ricerca, che ricercare una cosa molto specifica a volte ci permette, un po' per caso, e anche questo fa parte della bellezza del gioco, di fare scoperte che poi servono a campi impensabili dal punto di partenza. Questo dobbiamo trasmetterlo meglio sicuramente ai nostri politici. L'importante però è finanziare buona ricerca e buoni gruppi di ricerca, questo sì, quello è assolutamente fondamentale. Per ottenere un alto livello della ricerca scientifica è necessario garantire la meritocrazia e seguire precisi criteri di selezione degli scienziati. Così come racconta Fabrizio Dadda di Fagagna, 47 anni, famoso per i suoi studi pionieristici sull'invecchiamento cellulare. Oggi lavora all'IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare di Milano. Noi ogni 5 anni siamo valutati, lunedì io sarò valutato, spero martedì di poter entrare nel mio ufficio, però non è detto, e io dopo un periodo di 6 anni presso l'IFOM sono stato valutato ed era certo, era noto che se non avessi passato quel esame, quella valutazione, il mio contratto non sarebbe stato rinnovato, come è successo purtroppo per altri miei colleghi, e perciò c'è stato un controllo all'inizio che però non garantisce il lavoro vita, e ogni 5 anni noi saremo visitati da dei colleghi stranieri che verranno ad ascoltare quello che abbiamo combinato e cosa promettiamo che combineremo. C'è un problema di tassazione sui fondi che voi ricevete? Se io vinco domani un grant di una qualsiasi charity, perciò soldi che sono stati raccolti individualmente da piccole donazioni, perciò charity money, se io ricevo 100 domani di charity money e li uso per comprarmi l'enzima EcoR1 domani dalla Biolabs, da non so chi, pagherò le tasse, cioè io restituirò allo Stato un quinto dei charity money che ho ricevuto, che sono stati raccolti con dolore, con fatica, dagli individui che hanno contribuito a questa attività di charity. Questo mi sembra borderline immorale. Questo non succede in altri paesi. Quando ho lavorato in Inghilterra ho avuto la riconferma che così a tuttora è. Se uno riceve un finanziamento con quei soldi, comprerà reagenti, farà attività di ricerca senza restituire una parte di quei soldi allo Stato in forma di tasse. Tasse, mancanza di fondi, poca internazionalizzazione sono i problemi che ostacolano la scienza oggi. Ma anche la disparità tra pubblico e privato, ad esempio nella possibilità di selezionare la qualità dei ricercatori, come racconta il professor Gennaro Melino. Nel mio dipartimento su 125 tra ordinari, associati e ricercatori, ce n'ho 23 che sono inadempienti, 23 su 125, cioè una quantità enorme. La conseguenza di questo? Nulla, assolutamente nulla. Lavoreranno sapendo che non succede nulla, non cambierà nulla, non riesco a farli lavorare. Allora qui ci vuole la mobilità, ci vuole la meritocrazia. Professor Melino, ma funziona il sistema di distribuzione, diciamo, dei finanziamenti a pioggia, secondo lei? Assolutamente no. Avere 100 lire e darli a pioggia, una lira per uno, significa creare 100 persone che non riescono a lavorare. Invece creare un istituto, dare più meritevoli, investire sulle ricerche, sulle qualità e sulle persone e sui servizi che servono a queste persone per lavorare, crea praticamente un istituto competitivo. Quindi pioggia no. Il professor Guido Poli riassume i 3 punti fondamentali per il sistema della ricerca: la formazione, la imprenditorialità in ambito sanitario di ricerca e un pubblico che intelligentemente utilizza le poche risorse in modo mirato e non a pioggia, per tornare alla domanda di prima, sono state nel mio caso, ma credo nel caso di moltissimi altri colleghi, la chiave di ottenere un successo piccolo o grande o comunque dare un contributo positivo. E noi dobbiamo nei nostri ruoli incoraggiare e se possibile incidere a livello politico perché questi valori vengano apprezzati al di fuori del nostro stretto circuito. Questo credo sia la vera sfida. Però noi in Italia abbiamo, se non tutto, molte componenti per far riuscire un buon prodotto finale, un buon prodotto. Dobbiamo riuscire a contaminare in senso positivo la classe politica, gli imprenditori, elementi illuminati che ci sono e metterli in rete. In conclusione, senatrice Cattaneo, ma su cosa sta lavorando esattamente adesso? due settimane fa in Senato ho organizzato un evento sulla filantropia che aveva come scopo ultimo, insomma, quello di capire se la filantropia poteva essere uno dei mezzi per riattivare quella cinghia di trasmissione, no? Tra scienza e politica. In fondo la politica nella filantropia non deve metterci soldi e anzi potrebbe beneficiare, no? Di, insomma, esserne parte. Vi dico com'è andata, sto lavorando su questo punto della detassazione, quindi sto cercando di parlare con un senatore, con l'altro, quell'altro, proprio con lo stesso esempio. Se c'è una donazione, ma anche di un privato che studia che ha la malattia di Huntington e ti dà 100.000 euro e tu compri quegli enzimi per studiare l'Huntington, per studiare il cancro, per dare beneficio ad altre, paghi il 22%, e la risposta subito, ma questo così vi dà l'idea, no? Di, insomma, qual è la percezione. La risposta subito è quella di dire, eh sì, ma le industrie farmaceutiche, che non c'entrano niente, cioè quindi è drammatico e il mio obiettivo è come faccio a penetrare nei meandri di questi pensieri che sono lì accartocciati da chissà quanto tempo. Comunque anche l'altro messaggio da parte di altri senatori non è abbandonato alla strada. Mario, politica e ricerca, l'analisi della Cattaneo è drammatica. È reale. Cioè, né drammatica né bella, la dottoressa riprende quello che sono, che lo stato, la senatrice riprende lo stato dell'arte. Bisognerebbe aiutare sempre di più a decontribuire e a contribuire, nel senso che serve un fisco più amico sotto questo aspetto, e poi non servono solo fondi pubblici, no, bisogna certo dire anche no, questo. Anzi, cioè, si è detto. Se andiamo a vedere, i privati investono poco in realtà in ricerca e sviluppo. Non sono neanche detassati. No, no, ci vogliono provvedimenti normativi diversi. Pietrangelo? Tu? Beh, accanto all'analisi della senatrice Cattaneo, però sono rimasto impressionato dalle cifre e dai dati che tu all'inizio hai spiegato. Sì. Hai dato. Allora bisogna una volta per tutte chiarire a noi stessi e far capire all'opinione pubblica che è un danno mandare i nostri figli a fare scienze della comunicazione, faccio per dire, e invece investire proprio sulle cose vere e concrete, perché come hai spiegato prima con i dati e con le cifre, la scienza produce economia, certo, commercio, ricchezza. E nell'Italia che uccide il liceo classico si uccide anche la ricerca scientifica, che vanno sempre di pari passo. Mix 24. Take time in the morning light. There's nobody here. There's nobody here. E questa perché ha lavorato dall'alba fino a 5 minuti fa, un ragno, aveva le galosce e l'impermeabile, ha raccolto tutto un carico di brina e ha puntellato di riflessi la propria tela fino a farne un quaderno fitto di scrittura e rare cancellature. Vi ha fermato tutte le storie e nei tiranti con cui ha disteso la trama vi ha srotolato il pentagramma da cui i musicanti da strada, rifugiati tutti nelle gallerie della metropolitana a causa della pioggia, ne hanno ricavato questa bellissima canzone tutta di meraviglia. Intanto la realtà è sempre più difficile, le tue bolle, Mario. Eccola. Vai. Compagno buttafuoco, compagno Minoli. La patria russa. La patria russa. Comincia a avere dei problemi, viene, però. Sì, vabbè, cioè, ancora prima dei compagni. Gli aveva, gli ha da sempre i problemi la Russia. Come insomma, noi d'altronde. Questo South Stream. Eh? Allora, spieghiamo, raccontiamola un po' da un lato diverso, sì, diciamo. Non stiamo con quello che si definisce il mainstream media per una volta, anzi, quasi sempre in realtà andiamo controvento, ma vabbè, insomma, Putin ha deciso di non costruire più South Stream. Esatto. Il gasdotto doveva bypassare la rete ucraina e arrivare in Europa attraverso il Mar Nero, no? La cosa divertente però sono le reazioni. Perché come non lo costruisci più? Eh sì, non lo costruisce più. E i contratti? I contratti non ci saranno più. Perché la Bulgaria, che pure si era opposta, fieramente anche, no, su questa cosa qua, adesso c'è un po' di preoccupazione. L'Ungheria non ne parliamo, l'Ungheria in realtà era, diciamo, apertamente favorevole a questa cosa. C'era un conflitto interno, ma insomma è preoccupata. Molto preoccupata, tanto che si racconta di riunioni con la Mogherini, Lady Pesce, che ha dovuto affrontare pesanti critiche perché va giù il Nabucco, non fanno più South Stream. Effetti, beh, tanto per dire, in Italia Saipem, che era uno dei contractor, ieri ha perso il 9% in borsa, speriamo che le cose vadano meglio. Salzgitter in Germania ha perso il 7, e così via per ogni singolo soggetto coinvolto. Beh, naturale, in questo, non si fa più il progetto. Certo, allora, va bene, il rublo è ai minimi dal 98, il petrolio è ai minimi dei 5 anni, l'Europa continua la sua politica delle sanzioni. Ovviamente non è che Putin sta fermo, se tu inneschi una guerra di questo tipo, poi la Russia, il Cremlino, ti risponde. E segnalo, per chi volesse andare online, che c'è un'interessante discussione in corso in questo momento sul Financial Times, un forum, è in inglese, ma anche in cinese veramente addirittura, ma molto interessante, dove le opinioni sono molto molto molto diverse da quelle che vengono, diciamo così, espresse naturalmente nei media. Invito tutti a informarsi, come suol dirsi, sul tema, e ricordo che quando si fanno le rivoluzioni poi c'è sempre qualcuno che paga, vero Giovanni? Certo, è così. Pietrangelo, sei convinto? Pagare? Sì. Però ricordati che c'è sempre un aspetto metafisico nelle scelte della storia. C'è ancora? Ma c'è Gordon che dice una cosa. Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. A volte vinci, a volte perdi, ma continui a combattere. E se vuoi un amico, prendi un cane. Che era il suo commento a tutta la vicenda. Ci spostiamo in Egitto? Sì. Ok, vai. Non è colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare guerra o merda. Forse un disapremo quello che vuoi. Allora, questi sono gli Aria. In realtà è una scelta musicale che è più di Pietrangelo che mia stamattina, però è bella perché c'è un motivo arabo. Ci spostiamo in Egitto solo per sottolineare una cosa. Il presidente egiziano Al-Sisi, che è venuto qua in Italia, giustamente è stato ricevuto con tutti gli onori e così via. E insomma, poi da quelle parti succedono delle cose, eh? 185 fratelli musulmani condannati a morte. Sì. Condannati a morte, sì. Lo ripeto, 185. Non è il caso di ricordare al presidente egiziano che forse la pacificazione non passa attraverso le esecuzioni di massa degli avversari? Non lo so, è un, così. È un tema che io metto là. E poi ognuno che agita molto il Medio Oriente. E poi ognuno ne tragga le sue conclusioni. Salamino. Sembra niente, quasi un dettaglio, una virgola nel capitolo di storia il cui titolo è Silvio Berlusconi. Tutto cominciò con... Mi consenta... Nel frattempo ci fu un... Acribio, ma cosa fate? La musica poi, la musica! Fu un crescendo per arrivare a... Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. La storia, poi macina uomini e cose. Un'epoca, tutta un'epoca, sembrò sciogliersi più che come neve al sole, come un... Io garip e tu in grip, se per caso dicono sbatte via. Ah, tutto questo fu quel capitolo di storia il cui titolo è Silvio Berlusconi. E ve lo ricordate come cominciò poi in effetti? L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita. Lui era bello, con la cravatta, aveva pure pochi capelli, perché poi gli sono cresciuti dopo. E dietro la telecamera il mago dei videomessaggi Roberto Gasparotti, che ieri ha lasciato gli uffici e concluso la sua storica collaborazione col Cavaliere. Gasparotti è importante perché fu l'uomo che vestì la telecamera con una calza per attutirne nell'effetto ottico le rughe, qualora ci fossero, le imperfezioni, qualora ci fossero, e consegnare così alla storia, in quel capitolo il cui titolo è Silvio Berlusconi, come su di un filo, quello che adesso è diventato. Era una roba di estetica televisiva. Molto carino, molto carino. Senti, Sara, oggi sei un super lavoro, perché dopo il convegno della tempesta dei cervelli, cosa ci racconti? È una situazione complessa. Io sono convinto e confido che ci sarà un'indagine corretta, strettamente scrupolosa delle norme dello Stato di diritto, di cui questa grande democrazia indiana è esempio. Dobbiamo tutelare i Marò, vedere di riportarli a casa. E io credo che questa strada ci rende possibile sperare in una soluzione fast and fair. Ho incontrato il mio omologo indiano per ribadirgli che siamo determinati a esplorare tutte le azioni e politiche e legali a livello internazionale per vedere riconosciuti i nostri diritti ad esercitare la giurisdizione sul caso dei due Marò. Qualcosa è cambiato nel quadro politico indiano. E credo che il canale di comunicazione da questo punto di vista politico si sia rafforzato rispetto a prima. Quattro ministri degli esteri, un Monti ad interim, e dal 2012 che i nostri governi ci rassicurano sulla sorte dei due Marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Sarà. Però ieri il ministro Gentiloni ha rilasciato una lunga intervista dove ha messo tutto, tranne i Marò. Però noi non perdiamo la speranza, perché forse il ministro sta lavorando nell'ombra, magari, per iniziare il nuovo anno con una bella sorpresa. Capitano, che hai negli occhi il tuo nobile destino, pensi mai al marinaio a cui manca pane vino? Capitano, che hai trovato principesse in ogni porto, pensi mai al rematore che sua moglie crede morto. Mix 24. Il canzoniere. Stare con voi, seguirvi ovunque, conscio di ogni sorriso, di ogni movimento dei vostri occhi, di pensare fin troppo alla perfezione della vostra anima, di ascoltare la vostra voce, di sentirmi svanire di struggimento, quella immensa gioia che a me non è dato avere. Il mio tempo è breve, ogni giorno e ogni ora sono preziosi, eppure mi lascio vivere nella noia. Ogni giorno sarebbe un deserto se al mio risveglio non sapessi che quel giorno potrò vedervi sia pure per un attimo. Se soltanto conosceste le fiamme che bruciano in me e che io tento di spegnere con la ragione, ma è inutile, non riesco più a lottare con i miei sentimenti. Pietrangelo, ce l'hai un indizio? Perché mi sembra un po' difficile. No, è facile, non riesco più a lottare con i miei sentimenti. Allora ci troviamo di fronte alle pagine di un grande poema dove c'è tanta neve, dove c'è tanto amore. 800 24 00 24 per chi vuole indovinare, 349 238 6666, l'SMS. Posso dire, tutti i soldati di Putin lo conoscono a memoria. Va bene. Più indizio, sì, di questo è un indizio. C'è ancora una bolla, Mario? Sì, facciamo una bolla high tech, dai. Queste macchine sono nascoste, sono le nostre macchine migliori, scatenano l'azione. Ora si spiega perché siamo in calo. Sì, l'azione, certo, è davanti, non di dietro, mettile davanti. Va bene, lo farò. Stammi a sentire con molta attenzione, ci sono tre modi di fare le cose qui: il modo giusto, il modo sbagliato e il modo in cui le faccio io. Ecco, questa è la Casino, una battuta fulminante che poi mi pare si chiuda con tu falle come dico io. Fallo come dico io, fallo come dice Bezos, cioè il fondatore di Amazon. Allora, questo colosso ha, diciamo, mezzo ammazzato il mercato del libro di carta. Non è ancora morto del tutto, ma insomma, poco ci manca. Però, probabilmente anche per lui la festa è finita, perché dal 2007 al 2013 l'azienda ha quintuplicato i ricavi, passando da 15 a 75 miliardi di dollari. Però poi, se uno va a vedere i profitti, cioè gli utili, eccetera, c'è un rebus, perché quelli sono passati da 436 milioni a 273 milioni. Quindi crescono i miliardi di ricavi, ma calano i milioni degli utili. Quindi c'è qualcosa che non va nel suo modello di business. E cosa può essere? E molti costi aggiuntivi, sempre di più. Si è sviluppato in una serie di settori che forse non stanno rendendo come pensavano. Il cloud, eccetera, quindi... Secondo me arriveranno i pianti. Arriveranno i pianti. L'ultimo salamino? Salamini di casacca, cambi di casacca. Ancora poco e questa legislatura supera la precedente. Giuseppe Falci sul Fatto spiega come questa legislatura sta per superare la precedente nei cambi di casacca. E Falci conta 155 cambi e sono... tra poco prossimi a superare quelli del momento, perché c'è anche la questione, ma perché nessuno lo dice, la crisi del Movimento 5 Stelle non potrà che portare a questo sorpasso. Allora, e supererà quella del tempo dei razzi, degli scilipoti, e non ci sarà gara. Chi ci guadagna intanto è il Partito Democratico, che aggiunge 16 parlamentari. Forza Italia ne perde 56. Il trasformismo, si sa, porta al dinamismo, al fregolismo, al sali e scendi, al piglia e prendi, a questo e quello, e alla trama del tramarello, che protegge meglio di un ombrello. L'unica cosa che incombe, cos'è? È la buccia di banana. Scivolone e poi ci si siede. Certo. A Roma, il 3 dicembre del 79, moriva suicidandosi il grande Alighiero Noschese. Oggi con la storia su Mix 24, dopo il giornale radio curata da Marina Milone, ricordiamo questo grande artista. A seguire un'intervista su Alighiero Noschese con Paolo Guzzanti. E per finire, Mina, che interpreta Penso a te.